Vabbè, mi dicono qui, mi stimolano alcuni compagni a cominciare, anche se la situazione evidentemente non è proprio rosea, però sono le 5:30 passate, per cui cominciamo. Ho diciamo il compito di, come dire, inquadrare un po' questa riunione. E innanzitutto, volgendo un ringraziamento a chi ci ospita qui e quindi al Conchetta, e anche se mi pare che questa cosa possa essere, stiamo bene, diciamo, forse potremmo esprimerlo con una parola, diciamo, una forma di autonomia anche di pensiero e di prassi che resta, come è sempre stato, critico, fortemente critico rispetto ai processi di aziendalizzazione avvenuti nella scuola. Esprimerò, diciamo, questo concetto critico con una semplice domanda, dice, ma la scuola deve essere il luogo di accompagnamento al lavoro? Per noi, lo diciamo francamente subito, no, non può essere questo, o quantomeno non deve essere questa la caratteristica peculiare della scuola. Ci siamo perfino chiesti, di fronte ai processi ormai ampiamente avvenuti all'interno di essa, della scuola, se diciamo la risposta non debba essere l'abbattimento del sistema scolastico. Devo dire che ha fatto presa solo su qualche compagno questo tipo di tendenza, ma voglio dire che credo che questa non sia la risposta utile per affrontare i nodi che abbiamo di fronte. In una parola l'abbiamo espressa così, forse meglio si è detto abitare la catastrofe piuttosto che dichiarare l'abbattimento, che poi chi lo dovrebbe fare questo abbattimento? Abitare la catastrofe in termini di resistenza, anche se giornate come questa non ci stanno aiutando, perché speravamo evidentemente in un afflusso un poco, non dico tanto, ma un poco più sostanzioso. Però è meglio fornire almeno gli elementi di resistenza che non fuggire dal problema. Sul piano della, non solo sul nostro piano dell'agire, ma anche e soprattutto sul piano della presenza nella scuola, per chi almeno tra di noi resta ancora in campo, crediamo fortemente che l'elemento focale dell'azione dell'insegnante, perché siamo soprattutto insegnanti tra il personale della scuola, sia quello del perseguire l'autonomia degli studenti, fornendo gli strumenti evidentemente perché questo possa essere un obiettivo raggiungibile. E dal punto di vista della forma organizzativa interna alla struttura scolastica, pensiamo, abbiamo sempre guardato ad una forma di consiliarismo piuttosto che alle forme gerarchiche come sono invece presenti. Forma di consiliarismo vuol dire evidentemente che tutte le componenti presenti all'interno di queste strutture scolastiche possono intervenire per contribuire e modificare le situazioni in corso. Evidentemente dentro questa forma consiliarista che pensiamo, e che è un po' anche la prassi storica anche nei Cobas milanesi lo è stata. Pensiamo che le gerarchie sono gli elementi televisivamente, è il caso che sto trattando, di fronte all'arroganza, la pusillanimità dei dirigenti scolastici, quindi la soggezione, in questo caso appunto il dirigente scolastico che sto citando senza far nomi. Quindi abbiamo, diciamo, di fronte non solo una situazione appunto soggettivamente debole, come è evidente a noi tutti in questo momento, ma anche una situazione fortemente feroce sul piano della direzione generale della scuola. È per questo che non abbiamo evidentemente nessuna soluzione, quella che è già conosciuta sicuramente da tutti i presenti, che è quella di una forma di opposizione, di resistenza, costi quel che costi, ai processi in corso e ormai in corso da molto tempo. Si può parlare da questo punto di vista del genere di valutazione che viene espressa, dei meccanismi o degli istituti che sono stati messi in piedi, come l'Invalsi, la meritocrazia di fondo che anima anche purtroppo molti di noi docenti, ma che mostra dei limiti evidenti rispetto alle potenzialità, in realtà, che la meritocrazia non scoprirebbe mai né nei docenti né negli studenti, ma penalizza sul piano appunto dei processi di crescita e di autonomia. Io devo fare solo questo momento di premessa, di introduzione, se volete, a tante altre tematiche che sono citate in parte in documento che abbiamo reso pubblico e che è anche disponibile qui come Caos Scuola o anche come, diciamo, traccia di discussione oggi tra di noi. Se qualche stimolo, non è facile che possa essere avvenuto, ma se qualche stimolo a questa introduzione dovesse essere stato raccolto, diciamo, da qualcuno dei presenti, mi invito anche ad intervenire, altrimenti comunque avremo modo di andare avanti con una scaletta comunque già prevista. Grazie. Non applaudiamo per ragioni evitiamo di autoincensarci. Esatto. Buona giornata a tutti. Rinnovo i ringraziamenti a Conchetta, preziosissimo luogo non solo di incontro ma anche di possibilità di diffusione dei messaggi. Ringraziamo Conchetta per la pazienza nell'ospitarci e anche per la generosità nel mettere a disposizione i mezzi che permettono le nostre brevi forze di allargarsi oltre questo cortile. Detto questo, Io volevo riprendere due cose, anche qua molto cercherò di essere breve, due cose che sono state accennate da Francesco rispetto al nuovo modello di scuola a cui stiamo assistendo. Allora, innanzitutto c'è stato un processo di revisione del modello scolastico che ormai risale ad una ventina di anni fa ed è gestito in maniera bipartisan, perché possiamo contare dalla Moratti alla Gelmini, a Profumo, i governi tecnici, la Guizzoni, cioè tutta una serie di persone che trovano il coronamento nella figura disgustosa di Renzi, che grazie alla legge della buona scuola praticamente in termini peggiorativi riassume tutti i tentativi di ristrutturazione del modello già deficitario che era uscito dai decreti delegati, decretando una fortissima struttura aziendale. Qual è il problema? Che mentre la legge 107, che ormai risale a qualche anno fa, preventivava già la smaterializzazione della didattica, la figura centrale del dirigente scolastico, che non è più un primus inter pares, ma che diventa praticamente il capitano coraggioso che deve trascinare il vascello, purtroppo con la pandemia c'è stata un'accelerazione potentissima di questa esautorazione dei meccanismi di partecipazione, per cui se già prima della pandemia una discussione, un confronto politico agito all'interno delle scuole era stato assolutamente ridotto negli spazi e nella rappresentanza, con la smaterializzazione della didattica della DAD e soprattutto con la smaterializzazione anche degli organi collegiali, quindi dei momenti di confronto e dei momenti di decisione, si è avuto, come si diceva, una fortissima tendenza, una radicale, rapidissima tendenza alla gerarchizzazione, alla verticalizzazione non solo del processo decisionale, ma a caduta anche di come vengono svolte le attività. Un dato da registrare in questi ultimi anni a seguito proprio di questo cambiamento radicale all'interno della struttura scolastica è innanzitutto a fronte di una narrazione totalmente retorica, il fatto che la DAD ha portato ad un emergere delle differenze sociali, delle differenze di strumenti culturali e quindi a sancire una sorta di ritorno di fiamma del classismo, perché alla fine i figli degli immigrati, i figli degli strati sociali anche autoctoni, più poveri, pur avendo magari a disposizione in casa un computer per il collegamento, magari non avevano, spesso non avevano, come dire, le modalità, le conoscenze per interfacciarsi e per gestire tutto il processo formativo attraverso questo strumento. E infatti ci siamo detti più volte che effettivamente la DAD funziona esclusivamente per le persone che non ne avrebbero bisogno, che hanno già degli strumenti culturali che derivano dal loro ambiente di crescita, che permettono di gestire l'eterodirezione da schermo in maniera vagamente costruttiva. Per la maggior parte c'è da dire che per esempio nella scuola dove lavoro io in provincia di Milano dopo il primo anno di blocco, come dire, bisogna dire il blocco dei licenziamenti, di blocco delle bocciature, vedete come tutto si tiene. A fronte del blocco delle bocciature dell'anno scorso, quest'anno c'è stata un'impennata selettiva potentissima, cioè all'interno di uno degli indirizzi, quello più tecnico di tutti all'interno della scuola dove lavoro, su 670 studenti, 120 sono stati bocciati, cioè già a giugno, senza contare il possibile rincaro della dose a settembre con i debiti. Per cui, non so come dire, ci siamo detti più volte questa cosa, che la scuola in Italia non è vero che non funziona, funziona benissimo, perché il modello di scuola che si vuole è un modello di scuola assolutamente selettivo, c'è un ritorno proprio anche attraverso la smaterializzazione e attraverso il passaggio, la riforma strutturale dei programmi, per cui dal MIUR ormai da 5-6 anni si parla del passaggio dalle conoscenze alle competenze. Questo implica proprio una sorta di traslazione antropologica nel significato di cultura, cioè alla fine si passa dall'idea, già anche qua, già assolutamente deficitaria prima, della costruzione di una cittadinanza attiva ad una forma proprio di addestramento all'esecutività. Si viene premiati nelle griglie valutative, in tutto questo accanimento quantitativo che fa il pari, che sta a fronte della contrazione della relazione umana, inaridita dallo schermo tra docente e discente, cioè questo accanimento quantitativo risponde proprio a questa esigenza, risponde a questa esigenza di efficientamento, ma non di efficientamento rispetto al passaggio dei saperi, di efficientamento rispetto alle esigenze del mondo del lavoro. Io, visto che cioè, per le persone che ci sono qua, cioè, questo discorso è già, penso, dato per assodato, la parte interessante potrebbe vertere su quali sono le priorità a settembre, perché abbiamo visto che la smaterializzazione ha portato proprio, nel caso che abbiamo citato prima del nostro compagno, ma anche nella vita di chi sta nei collegi docenti, la smaterializzazione dei collegi docenti, la smaterializzazione dei contatti con i genitori, la smaterializzazione del consiglio d'istituto, porta fondamentalmente al fatto che passi il messaggio che non bisogna rompere i coglioni al manovratore. Il manovratore è uno, e visto che poi si gestiscono i momenti di contatto in 150 persone su GoToMeeting, anche la possibilità di un franco confronto viene meno, perché si viene con estrema facilità cassati. Questo è un temone, perché anche qui in Conchetta il gruppo Lost, i confronti anche con il gruppo Ippolita hanno portato più volte a ritornare sul concetto di pedagogia hacker. Ma questo concetto di pedagogia hacker, come dire, confligge con in questo momento un utilizzo votato alla distopia del controllo delle tecnologie all'interno della scuola. Poi ci sono dei docenti che lo fanno, cioè, come dire, che si attrezzano come durante il primo lockdown e fanno delle cose anche meravigliose a prescindere dalla volontà della struttura, ma poi la struttura arriva, spesso mette il cappello, spesso irrigidisce, spesso proceduralizza. Allora, a settembre cosa si può fare? Cioè, secondo il dibattito anche all'interno di Franti è variegato ed aperto. Una delle cose dovrebbe essere quella di segnare una forte limitazione all'utilizzo della didattica a distanza, che sta diventando proprio già nel lessico del Ministero la didattica integrata, proprio perché si mira, dopo anni di accelerazione in questo senso e dopo gli ultimi due anni di spesa anche di investimento notevole nelle tecnologie, a rendere proprio costante la presenza, la smaterializzazione dello spazio scuola attraverso gli schermi. E questa è la prima cosa. Ma poi l'altra cosa sulla quale riflettavamo è che la tendenza che c'è nelle scuole al fatalismo e soprattutto ad una modalità di interpretazione dell'attività sindacale come delega ad una struttura esterna alla scuola che venga e metta una pezza, no? Confligge invece con il fatto che in questo momento occorrerebbe attraverso, come dire, il rinverdimento della forma del sindacalismo di base, purché sia, anzi proprio al di là del frazionamento delle diverse sigle, che i singoli docenti, soprattutto quelli di buona volontà, si accolgono la responsabilità di di ricreare il conflitto. Ed è una cosa che è possibile fare, perché già, per esempio, rifiutando gli incarichi che non rientrano nel contratto nazionale, che solitamente i dirigenti scolastici affibbiano così a settembre a babbo morto, rifiutando di candidarsi per fare figura obiettivo, funzione obiettivo, ma anche non aspettando che l'organizzazione degli eventi di contrasto a ciò che l'agenda politica prevede e che ci viene detto la sera, cioè passi per un'organizzazione superna. È possibile per il singolo docente, per esempio, fare degli scioperi bianchi, semplicemente per esempio facendo lezione con delle tematiche non immediatamente inerenti il proprio programma curricolare, oppure se si ha un minimo di coordinamento riuscire a fare delle assemblee interne, dei cortei interni, cioè piuttosto che esternalizzare la lotta laddove praticamente non serve più, cercare di concentrare tutte le energie nell'ottica di rivitalizzare il proprio posto di lavoro. Per questo noi contavamo anche che il contatto, cioè effettivamente la data è infelice, però sarebbe bellissimo, avevamo pensato anche con il buon Tom, proprio grazie anche all'ambiente dove stiamo, alla libreria Calusca, che si è sempre occupata, come dire, di fare da archivio al movimento, sarebbe bello riuscire anche a dare visibilità ad una serie di iniziative che sono state fatte, per esempio, durante i 3 lockdown, in ordine sparso, per lo più per l'impossibilità di rimanere ulteriormente nell'immobilismo, ma che non si sono coordinate per nulla. Cioè, e quindi anche semplicemente cioè, sarebbe bellissimo arrivare ad una forma di coordinamento, ma quantomeno ad una forma, sarebbe bello anche semplicemente il prossimo anno cercare di lasciare traccia di tutte e poi coordinare tutte le iniziative di contrasto che possono emergere direttamente dal basso. Grazie mille. Come dice Andrea, niente applausi perché sarebbero quasi ridicoli. Allora, non lo so, io non so bene come partire, verrebbe da dire in maniera un po' provocatoria, non sarò breve. No, ma c'è Tom che mi ha lanciato un'occhiataccia, quindi siccome è dopo di me, allora cercherò di essere breve, soprattutto per Tom. Allora, molte cose sono state già dette. Io mi dovrei occupare della parte, ma mi sono proposto, perché è una cosa che mi dondola in testa e verrebbe a dire parto da me, dalla mia esperienza di vita, dalla mia esperienza attuale di vita, sia come lavoratore della scuola, sia come genitore di due ragazzi, una insomma ormai una donna fatta e compiuta, l'altro un adolescente. E vorrei parlarvi della difficoltà, della complessità dei rapporti, delle relazioni intergenerazionali, no? Ovviamente quando poi uno parla di un argomento è per forza riduzionista, no? Devi ridurre perché comunque l'argomento è molto complicato, però e cercherò di essere un po' di avere vari punti di vista. L'abbiamo scritto su questo documento Caos e Scuola, che abbiamo scritto, è stato un documento collettivo. Comunque rispetto alle relazioni, secondo me intergenerazionali, è un periodo pessimo, è veramente un periodo di merda. E verrebbe a dire, ma non è da oggi, ho parlato di attualità, però mi viene in mente un libro di Pirandello ambientato, mi pare che sia il libro sia del 1909, però è ambientato nel 1893-94, era il periodo dei fasci siciliani, cioè delle rivolte dei braccianti, così, nella, ormai da 30 anni c'era l'Unità d'Italia e comunque c'era già un problema politico di come stare insieme, no? Di come mettersi insieme per poter fronteggiare, come direi, il potere dello Stato nazionale che avanzava e che poi purtroppo tragicamente 20 anni dopo porterà alla Prima Guerra Mondiale, poi al fascismo e poi alla situazione attuale. Comunque, ritornando all'attualità, perché per il periodo è pessimo? Perché la situazione è pessima? Perché ci sono alcuni elementi che portano a delle distanze che certe volte sembrano davvero incolmabili, no? Di chi è la colpa? Ma qua, non mi piace parlare di colpe, le colpe non sono né dei giovani né dei vecchi, è facile dirlo, la colpa è del sistema, no? La colpa è del capitalismo, però nell'ultimo periodo ragiono molto sui condizionamenti, anche qua dico l'ultimo periodo, però sono, come dire, pensieri abbastanza datati, insomma risalgono almeno una decina d'anni fa, almeno per quanto mi riguarda, cioè sul fatto che siamo talmente condizionati da questo sistema, da questa sorta di piovra tentacolare che ci sovrasta, che siamo condizionati, diceva Freud, la coazione a ripetere, no? Però qual è la coazione a ripetere? Oggi come oggi la coazione a ripetere è il consumo. Noi siamo totalmente schiavi del consumo. Certo, magari noi qui presenti magari meno, perché insomma siamo più o meno abbastanza sobri come persone, però soprattutto i ragazzi sono molto schiavi di questa fenomenologia, la chiamerei, no? Quindi Andrea scriveva in un piccolo promemoria per questo incontro, usando l'inglese, l'innovazione, io lo dico in italiano, l'innovazione distruttiva, cioè questo sempre nuovo, nuovo, nuovo che sembra che debba cancellare il vecchio, come se il vecchio fosse tutto da buttare, no? Io non sono d'accordo che il vecchio sia da buttare, certo non sono neanche un nostalgico, assolutamente, cioè, lo sappiamo che il passato insomma ci ha riservato veramente delle situazioni, come dire, pensiamo al Novecento, no? A che cosa è stata capace l'umanità di mettere in atto nel Novecento. Però non è tutto da buttare, cioè, nel senso che non c'è, secondo me, questa grande capacità di novità, perché poi arrivo al nodo, le relazioni, già il discorso della ricorsività, della riproposizione di alcuni fattori, direi, umani, proprio incarnati, è già nella parola relazione, no? E quali sono questi fattori? Fondamentalmente sono le emozioni, che qualcuno dice sono un po' a metà tra il naturale e il culturale, e poi i comportamenti. Quindi le emozioni e i comportamenti. Le emozioni sono bene o male sempre le stesse, non è che ci sono emozioni nuove, cioè si fa fatica a trovarne emozioni nuove, cioè verrebbe a dire sono emozioni da sempre. Magari alcuni comportamenti sono nuovi, mi viene da pensare all'uso dei cellulari, no? All'uso ormai che facciamo di questi dispositivi elettronici che ovviamente confliggono con l'idea, cioè sono completamente diversi con l'idea magari dell'operaio che lavorava in fabbrica piuttosto che del contadino, piuttosto che della massaia a casa, no? Ormai tutti usiamo, cioè facciamo dei comportamenti abbastanza comuni, che però bene o male portano anche lì probabilmente a un'idea di di emozione, no? Quindi di desiderio, di voglia di trovare spiragli di benessere, di felicità, di serenità, chiamiamoli come vogliamo, no? Ok, bene, allora la domanda potrebbe essere questa: ma si può vivere con un certo grado di benessere, di felicità, di serenità insieme tra vecchi e giovani? Questa è la domanda. E forse, se volete, magari è un po' implicita, però è la domanda della scuola, no? Nella scuola si potrebbe, forse, è una scommessa, vivere insieme con un certo desiderio di felicità e di serenità. Bene, allora io insegno da 20 anni e prima ho fatto lo studente per altri 15, anche di più, e devo dire che non è che era facile vivere sempre bene, però c'è stato un elemento in questi ultimi 16 mesi, attraversati da situazioni, da fenomeni direi epocali, quantomeno nella vita penso dei presenti inediti, che riguardano ovviamente la pandemia, che però qualche risposta ce la danno. E mi riferisco a questo, al fatto che comunque i ragazzi, dall'oggi al domani, anche gli insegnanti, i lavoratori, i genitori, si sono ritrovati quasi dall'oggi al domani senza la scuola. Mi riferisco al 24, almeno per quanto mi riguarda, al 24 febbraio del 2020. E nell'arco però di pochi mesi è stato chiaro che questi ragazzi, nella stragrande maggioranza dei casi, sì, qualcuno magari diceva di no, però avevano desiderio di tornare a scuola. E questa, se volete, è abbastanza una caratteristica che, secondo me, deve darci un po' l'orizzonte del fatto che i ragazzi, nonostante magari i luoghi comuni, e nonostante anche quello che certe volte loro esprimono a parole, però la scuola la vivono come un luogo di importanza per la loro vita, quantomeno per una questione di socialità, no? O se volete, entrando un po' più nel dettaglio, anche di apprendimento imitativo dagli altri, di crescita tra pari e anche, perché no, di confronto con la generazione degli adulti, che sarebbero gli insegnanti, che non sono i genitori, perché poi lì entriamo invece in relazioni diverse. Allora, su questo magari l'abitare la catastrofe di cui si parlava si potrebbe scommettere. Noi continuiamo a scommetterci, nonostante appunto i segnali dell'assenza di altre persone, a parte, come dire, noi frantiani, e allora lì sta il gioco. Andrea proponeva di ritornare a una dimensione di conflitto, ed è, direi, sacrosanto, perché negli ultimi anni questo conflitto, secondo me, è stato messo sotto al tappeto con un discorso forse un po' psicanalitico, no? Cioè è stato rimosso, no? Però, come dicono gli psicanalisti, tutto ciò che rimuovi prima o poi ritorna, e verrebbe a dire, noi che tendenzialmente non l'abbiamo rimosso vorremmo che ritornasse il prima possibile. E il conflitto io lo metto, lo annovero dentro questa dimensione della relazione, però, perché le relazioni sono comunque di per sé anche conflittuali, non è che sono di per sé, come dire, rose e fiori, però nel conflitto ci si misura, ci si autolimita, ci si conosce, ci si confronta reciprocamente, verrebbe a dire si cresce. Noi abbiamo scritto su Cause Scuola un proverbio africano che ha tirato fuori Tom, molto bello, che dice: per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, e probabilmente noi, seppure con modalità diverse, siamo cresciuti in un villaggio, no? Magari qualcuno è cresciuto in una città, ma era una città comunque diversa, molto più lenta di oggi, molto meno, userei questa emozione, che secondo me purtroppo è l'emozione predominante in questi tempi, molto meno competitiva, no? Anche villaggi erano molto più solidaristici, per come li ho vissuti io e penso come li abbiamo vissuti tutti. La competizione ha vinto, e questa emozione deborda da tanti lati. Allora, come si può fare a combatterla, verrebbe a dire? Intanto, secondo me, come tutte le emozioni, quando ci sono, quando escono fuori, va accettata. C'è, e verrebbe da riconoscere che ce l'abbiamo tutti. Tutti siamo competitivi, perché siamo profondamente degli animali, e come tutti gli animali non c'è bisogno di scomodare l'evoluzione di Darwin, però siamo competitivi. Però la competizione, se la conosci, la puoi imparare a gestire, volendo, no? E quantomeno puoi evitare che diventi il motivo, come dire, la base su cui poi scannarsi, su cui fare una guerra, verrebbe da dire. E poi la guerra si sa che porta morti, porta lutti. Allora, meglio il conflitto, tutto sommato, e qui c'è forse una punta di ottimismo, no? Di dire, meglio confliggere, no? Perché poi, se il conflitto appunto lo mettiamo sotto al tappeto, poi quando ritorna rischia di diventare guerra senza quartiere, come si diceva una volta, no? E qui introduco il concetto della gestione delle emozioni. Questa probabilmente è una delle cose che bisognerebbe imparare a quantomeno ad esperire, a tirar fuori nella scuola, perché sicuro che i ragazzi, prima si accennava all'esperienza di chi ha vissuto quest'anno, quest'ultimo quadrimestre, Gianni, nella sua scuola, una scuola superiore, verrebbe a dire un liceo classico della borghesia media, medio-alta milanese. È chiaro che lì sono venute fuori delle fragilità emotive, però non è che, come scriveva anche Gianni in una risposta, non è che però perché i ragazzi mostrano questa fragilità emotiva allora li dobbiamo, come dire, idolatrizzare, lui diceva, cioè non va bene l'idolatria della gioventù, perché comunque siamo stati tutti ragazzi, tutti noi abbiamo vissuto le nostre fragilità emotive, e verrebbe a dire, se siamo ancora vivi e vegeti anche grazie alla fortuna, alla buona salute, evidentemente le fragilità emotive le abbiamo affrontate, no? E qualcuno probabilmente ne ha affrontate anche e ne affronta tutt'oggi. Mi vengono in mente i bambini purtroppo morti stanotte nel canale di Sicilia ne affronta di molte peggio dei ragazzi del Tito Livio di Milano, no? E allora bisogna, come dire, quantomeno contestualizzare e capire che cos'è questa fragilità emotiva, quindi accettare la fragilità emotiva e riconoscerla come un'emozione che abbiamo tutti, che però poi non è detto che deve portare a dei comportamenti per forza di... Ecco, e qui cito due comportamenti, secondo me, che sono per me la peste, cioè per dire qualcosa che non va bene. Uno, la cosiddetta guerra tra poveri, no? Che poi può voler dire anche, per certi versi, sì, forse un po' tirato per la giacca, è la guerra tra genitori e insegnanti, per certi versi, ma anche tra insegnanti e ragazzi, perché poi fondamentalmente, se ci pensiamo, se ci distacchiamo un attimo, se riusciamo a fare un po' di mente locale, alla fin fine l'obiettivo dovrebbe essere comune, no? Che è quello, come diceva Francesco, della creare un'autonomia di questi ragazzi. Anche se ovviamente la parola autonomia andrebbe molto declinata, perché sappiamo bene che nella scuola viene utilizzata strumentalmente come autonomia scolastica, che è una porcata veramente inenarrabile, no? Una sorta di cavallo di Troia che hanno inserito, come diceva Andrea, i governi compagni del compagno D'Alema e Bassanini, e che poi, insomma, si è dimostrata in tutta la sua ferocia. E allora stavo dicendo che la guerra tra poveri è un comportamento che a noi non piace per nulla. Anzi, noi pensiamo che i poveri, tra virgolette, con tutte le sfaccettature, si dovrebbero mettere insieme, legare per combattere i ricchi, no? Combattere quelli che ci costringono in questa situazione di, come dire, di angustia, no? Di vita che purtroppo siamo costretti a vivere. E l'altra è la creazione di capri espiatori, altro comportamento che per me è come la peste. Però riconosco che sto tirando fuori, come dire, dei concetti molto grandi, no? Però per chi un po' li vede, cioè per chi ce li ha in testa, li riconosce anche nei ragazzini, perché sono comunque concetti molto diffusi. Ci sono già nelle classi, anche nelle classi dei piccolissimi della scuola dell'infanzia. Non mi posso scordare quando mia figlia, a proposito, era molto piccola, io l'accompagnavo a scuola, avrà avuto 3-4 anni, e già una bambina, ma con me davanti, cioè senza proprio, come dire, pudore, le diceva davanti a me: tu non giochi con noi, no? Quindi penso a Piera, che sicuramente chissà quante ne avrà viste e ne vede di questi comportamenti, no? Perché è facile, no? Trovare il capro espiatorio, lo sappiamo, poi per altri versi, prima erano i meridionali quando venivano a Miano, oppure ora sono i migranti, piuttosto che sono gli omosessuali, piuttosto che sono le donne, no? Cioè, lo sappiamo benissimo che la nostra società non fa altro che sfornare continuamente capri espiatori su cui accanirsi, no? Perché poi è facile, sappiamo, lo dicono, ci sono fior di libri a proposito di Calusca, che è un luogo, come dire, molto ricco. Lì uno dei più di quelli che l'ha affrontato meglio questo concetto è un antropologo francese che si chiamava René Girard, che ha scritto appunto sul capro espiatorio, no? E sul desiderio mimetico, molto molto molto molto interessanti. E lui diceva che quando in una comunità si creano tensioni, e la scuola ovviamente, oppure qualunque tipo di comunità, anche la famiglia, piuttosto che il villaggio, la società, tende a creare capri espiatori. E questo non va bene, perché noi non abbiamo bisogno di capri espiatori, abbiamo bisogno, come dicevamo prima, di provare a scommettere su quell'idea. Si può stare insieme con un certo grado di benessere, di serenità, di felicità, con tutte le contraddizioni, con tutte le difficoltà, si può stare insieme. Ecco. Adesso mi verrebbero da dire altre cose, però ne ho dette già abbastanza e anche abbastanza alte, quindi per ora mi fermerei, perché sennò diventa troppo lungo e tedioso il mio intervento. Grazie. avevamo uno stecchino, l'abbiamo diviso in quattro, ognuno ha preso un pezzetto, a me è rimasto l'ultimo, e quindi qualche cosa vi devo dire. Sarà circa un anno fa che proprio in questo posto, a margine di una riunione di Franti, io e Andrea, chiacchierando, riflettevamo sul fatto che la scuola, che poteva essere considerata come se fosse una riserva indiana, perché ancora conservava quell'unità di tempo, luogo e azione aristotelici che hanno costituito un elemento indispensabile per la costruzione del pensiero ribelle e rivoluzionario nei luoghi del lavoro. La scuola che conservava questa struttura ancora, dove quindi i ragazzi andavano per diversi anni nello stesso posto, tutti i giorni avevano il tempo di elaborare teorie, riflessioni, pratiche, sperimentare, di tramandarsi l'uno con l'altro, padam, con la pandemia è stato spazzata via completamente. Cioè, questa fosse anche l'ultimo pezzo che della scuola poteva restare in qualche modo salvifico, è stato spazzato via oggettivamente da una situazione di emergenza sanitaria su cui non voglio come dire entrare nel merito, ma sistematicamente, essendo che questa situazione di emergenza sanitaria ha in realtà offerto al capitalismo nazionale e anche internazionale, però distinguiamo paese con paese perché non è tutto uguale il nostro l'universo mondo, ha offerto al capitalismo nazionale l'opportunità di fare il passo avanti grande e quindi di introdurre delle misure di distanziamento e di allontanamento e di sgretolamento delle relazioni che erano già state grandemente introdotte nel mondo del lavoro e non si era riuscito ancora a portarlo nella fascia dell'età più giovane, a introdurle in maniera sostanziale e tendenzialmente definitiva, con i risultati e gli effetti che venivano in qualche modo raccontati prima, descritti prima, cioè da un lato la forma di un accertamento e verticalizzazione molto più alto, perché naturalmente la gestione del fare collettivo attraverso un terminale che uno gestisce, diciamo, di cui uno ha il bottone di accensione e spegnimento, è altra cosa rispetto ad una riunione circolare o anche cattedratica come a cui eravamo abituati abituati a suo tempo. Quindi da questo punto di vista, anche se volete, forse per questo si pongono delle questioni adesso che sono un po' nostalgiche, già nostalgiche di alcune questioni che prima venivano affrontate nella quotidianità, cioè questa la questione degli affetti, delle relazioni eccetera, si sovrappone ad un contesto in cui questa roba materialmente non c'è più o non ha quasi più spazio di esistere, quindi ci poniamo delle domande che avevamo in un presente in cui queste domande non riusciamo bene a mettere da qualche parte. Allora io devo, e lo faccio sempre, e non ho motivo per non farlo, non c'è niente di pregiudiziale in tutto questo, devo spezzare una lancia nei soggetti, a favore dei soggetti. Cioè, se da un lato è vero che nella scuola è rimasto, quello che è rimasto adesso nella struttura, nel telaio, è la parte disciplinante e formativa in una funzione, in un'accezione prettamente lavorativistica e professionale, quindi se è vero che il telaio è quello, i soggetti che abitano, hanno abitato, transitano attraverso l'istituzione scolastica sono vivi, non si relazionano tanto, non si conoscono, fanno una grande fatica, sono molto separati gli uni dagli altri, ma sono vivi, hanno spesso delle ottime idee, solo che o non lo sanno bene o se anche lo sanno sono molto soli. in questo. Dico questo perché sulla questione che poneva Angelo, una risposta io non la so dare, non voglio, però diciamo c'è proprio un canale comunicativo tra intergenerazionale che è rotto completamente. Può darsi che succeda, ogni generazione abbia il suo giro di vite di questo tipo qua, e questo diciamo è una cosa che uno sperimenta sulla sua pelle una volta sola nella vita. Però se noi andiamo a guardare le diverse generazioni, delle parole ce le hanno, le loro parole ce le hanno, e delle cose le dicono anche per niente sciocche e superficiali. Vero è che, vista la bordata pesante che gli è stata tirata addosso, l'attitudine principale è quella di chinare la testa e cercare di evitare il colpo, va bene? Cosa che peraltro anche i loro insegnanti a scuola gli insegnano quotidianamente, nel senso che è una pratica che è più facile imparare dagli altri che diciamo inventarsi da soli nel mondo in cui siamo. I soggetti ci sono, quindi, e io ribadisco, sono vivi, e quindi il problema che possiamo forse porci in un momento come questo è come, se e come si può far sì che questi soggetti tra loro parlino in qualche modo, qualcosa dicano. Io non ritengo fondamentale che vengano dette le cose particolarmente complicate. Noi abbiamo un apparato ideologico molto pesante alle nostre spalle, che ci è stato utile e che però bisogna dire alla fine dei conti, almeno ad oggi, non è stato abbastanza efficace. Non è da buttar via, anzi è da tenere, e diciamo io passo giornate all'archivio proprio perché credo che questo sia un compito fondamentale, però non è da imporre, io penso, cioè è una cosa che su cui nella dialogicità la parte migliore avrà la meglio, di solito funziona in questo modo qua, e quindi la relazione, la ricostruzione di una relazione, il costruire dei ponti di comunicazione sono in questo momento, io penso, un elemento strategico che vale sia nell'inter che nell'intragenerazionale, diciamo, cioè nella verticalità e nell'orizzontalità delle diverse età e delle funzioni e dei diversi ruoli. Che cosa significa questo nella scuola? Io penso due cose, si può sintetizzare in due cose. La prima era quello che diceva Andrea, che hanno poi detto anche loro, cioè che non è tanto la questione se distruggere o meno l'istituzione scolastica, perché è chiaro che così a nessuno piace, ma se mai bisogna fare qualcosa di quel tipo, gli va fatto dall'interno, cioè bisogna abitarla in maniera provocatoria, frantianamente. Ci è capitato, diciamo, forse proprio come, anzi forse non a caso il nome di questo gruppo che diciamo qua è legato a questa figura del ragazzo dispettoso, ribelle, quello seduto dall'ultimo banco, quello che ride del professore che butta le bombette puzzolenti a scuola, questa roba qua. Allora, esserci provocatoriamente significa rompere quel senso così di equilibrio nel nulla che una certa razionalità sembrerebbe volere imporre, e potrebbe forse arrivare a un risultato. Non è un lavoro facile, però è possibile. Aggiungo che è vero che ci sono anche altri canali, tanti, e forse basterebbe attaccarsi a questi, ma un altro elemento in questa attività è la circolarità delle informazioni su ciò che succede, perché in questo stato così di dispersione è facile che tante cose che sono considerate o sono degli atti coraggiosi che avvengono in un posto avvengano in realtà in molti posti, ma che uno non lo sappia, perché lui lo fa lì dov'è lui, no? E chi glielo dice che è successo altrove? Allora talvolta sapere che è successo altrove ti aiuta a fare quello che stai facendo o quello che hai fatto. Anche su questo, come dire, la disgregazione non è solo di relazione, ma anche proprio dal punto di vista dell'informazione. Quindi io credo che avere degli strumenti di comunicazione e di circolazione delle lotte, anche le lotte piccole, piccole, diciamo, no? dei documenti prodotti, le riflessioni fatte, eccetera, è comunque in questo momento una cosa importante. Nell'ottica sempre, come dire, di agire in maniera provocatoria sulla realtà, spingere la realtà, non tanto di dare il cappello e di dire dare la soluzione, che quella non ce l'ha nessuno, nel senso che ci siamo trovati impantanati, quant'anche una soluzione l'avevamo, e ci siamo trovati impantanati uguali, ecco. Quindi io da questo punto di vista sono, posso dire, abbastanza ottimista, anche se riconosco che la situazione oggettivamente è gravissima, è molto, diciamo, direi quasi disastrosa, però intravedo delle potenzialità. Non fosse altro, l'ultima la dico, è quella che da parte sua il capitalismo è in grossa difficoltà sua, cioè è vero che sta cercando di dare delle uscite possibili ad una crisi che lo attanaglia da 15 anni, però è anche vero che questa roba non gli viene proprio facile nella sua stessa organizzazione delle cose, e quindi vedremo, insomma, c'è spazio davanti. Io penso che possiamo girare, non so, proprio per la circolarità dell'informazione. Sì, certo. Scenderò. Mettiamo tutto in pratica. No, serve parlare al microfono, perché nella speranza che qualcuno possa essere connesso. Sì, Giovanna? Io, scusa se ti chiamo in casa. No, subito, così. No, ci vuole. No, ma perché... Per ospitalità terrona, te lo dico, perché tu sei quella che vediamo meno recentemente, ma non sei l'unico. Microfono, vieni. Allora, diciamo che è un po' difficile intervenire, perché gli input che sono stati dati sono molto vari, anche diversificati, e richiedono anche una lettura diversificata, per l'appunto. Partirei dall'ultimo intervento, cioè da quello che diceva Tommaso. Fondamentalmente sappiamo tutti benissimo che è molto difficile mettere in piedi delle lotte, anche testimoniali, come dire, piccole, che soprattutto abbiano una visibilità. E questo è un problema. Di lavoro, a partire dai colleghi, no? Che invece sono abbastanza allineati e coperti, quindi non sempre accettano di buon grado anche le critiche o le posizioni che si esprimono in contrasto, diciamo. Quindi c'è una difficoltà oggettiva a portarle avanti, soprattutto c'è una difficoltà, secondo me, oggettiva nel conseguire dei risultati concreti, che è un fatto importante. È un fatto importante perché costringerebbe comunque tutti, qualcuno di voi ha parlato di fatalismo, se non ricordo male, no? Di atteggiamento un po' fatalista, io parlerei molto spesso di opportunismo, no? Di colleghi che si guardano bene dal prendere posizione, anche se poi sono prontissimi a trovarsi le soluzioni individuali, no? Tutte le cose, quindi fanno passare di tutto e di più, anche questioni che rendono la vita personale impossibile, però poi si mettono in malattia, si mettono d'accordo per una cosa che mi ha colpito. Cioè, insomma, io ti voto tutto quello che vuoi. Tieni presente che però il 28 ho un battesimo, quindi organizza i miei impegni in modo da lasciarmi libero quel giorno. Questo era il messaggio, non tanto velato. Quindi questo per esprimere un aspetto, diciamo. Spero di non essere dispersiva, perché ripeto, è molto grande, diciamo, sono parecchi i temi, quindi allora, quindi questo, io sono d'accordo sul fatto che è assolutamente indispensabile, quindi cominciare a confrontarsi. Io so della vicenda di Gianni, me ne ha parlato Elvira, così una volta che ci siamo incontrate, la prima cosa che ho detto ad Elvira è: tienimi aggiornata e magari vediamo di costruire anche un momento pubblico in cui, nel momento in cui la vicenda, ecco, c'è questa evoluzione, perché c'è bisogno di far conoscere le esperienze anche piccole, ripeto, di ognuno, e di farlo conoscere anche a tutti i lavoratori della scuola, perché secondo me dobbiamo cominciare a trovare dei modi per rompere questa sorta di muro di gomma che ci sta uccidendo, insomma, ci sta rendendo la vita veramente difficile. Quindi questo secondo me è prioritario, e quindi secondo me è bene partire da questa consapevolezza e anche dall'individuare la modalità che ci permetta di raggiungere questo obiettivo, perché già questo sarebbe importantissimo. E naturalmente questo che cosa richiede? Richiede una cosa secondo me molto semplice, ma molto difficile nella soluzione data, da raggiungere, da fare, da realizzare, che è quello di essere molto costanti. Certo, lo sappiamo che se si è da soli in una scuola è difficile mantenere sempre l'intervento, la cosa, perché comunque abbiamo anche delle vicende umane e personali che non ci permettono concretamente di poter mantenere sempre la presenza fisica, no? Già questo è un problema. Secondo me un fatto importante proprio che nel momento in cui inizi, come si suol dire, bisogna essere sul pezzo, cercare di essere incisivo e, ripeto, cercare anche di portare a casa dei risultati. C'è una frammentazione terribile che, diciamo, i lockdown che si sono susseguiti hanno assolutamente esasperato, che è quella dell'isolamento, della frammentazione, la guerra tra poveri. La guerra tra poveri io per prima la metterei proprio tra i lavoratori, insomma, la prima forma è quella, perché è diventata una cosa dolorosa, direi quasi, faticosissima da reggere, che è necessario però cominciare a smantellare, perché viene da anni in cui si sono costruiti i contratti con le miserie che danno per i progetti, per le cose. Una cosa che mi fa incazzare regolarmente è che tutti i colleghi che hanno uno straccio di figura obiettivo, di cazzate di questo tipo, diventano automaticamente arroganti, portatori, no, di disprezzo proprio bieco, basso, di basso livello, e sono normalmente persone anche di bassa umanità, diciamocelo, no? Perché però questo ha fatto leva, ha fatto grandi danni, perché da un lato c'è questo, perché si vogliono mantenere i piccoli privilegi, le cose, quindi diventano più realisti del re. E, dall'altro, come dire, gli altri si sentono intimiditi, perché facilmente si sentono attaccati o sottoposti, oppure, come dire, rischiano di poter pagare su fatti che possono diventare importanti, insomma, no? Perché significa che ti rendono la vita difficile, complicata, e non è facile, non è da tutti reggere, ecco, lo sappiamo. Io ho retto in quella scuola solo perché ho detto: io da qua non me ne vado, mi potete pure, non lo so, massacrare, però onestamente è difficile, cioè, per le persone, diciamo, che non hanno questa determinazione, è molto difficile, e chiaramente questo ti toglie tantissime energie mentali, fisiche, di tempo, di cose, perché poi una volta devi rispondere a contestazione, una volta a quello, comunque sono giorni che ti partono, insomma, no? E energie che volano via. Quindi questo, secondo me, se si riesce a cominciare a ragionare concretamente da questo punto di vista, secondo me sarebbe importante. Ecco, io mi fermo, ripeto, ne avete tirato fuori sollecitazioni a bizzeffe e sarebbero meritevoli, però. Spero di essere stata organica. Continuiamo con le donne, Piera. Purtroppo sì. Solo una parentesi, chiudo. Molti di voi lo sanno perché avete ricevuto o mandato anche comunicazioni varie. Da questo punto di vista, delle cose concrete, diciamo, le stiamo mettendo in piedi, no? Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di leggere che abbiamo messo in piedi un'assemblea di donne lavoratrici, proprio perché riteniamo che sia indispensabile conoscere intanto anche le piccole lotte che ci sono in piedi, quello che si diceva, dove torna, conoscerle, ma anche diventare più forti, perché questo è importante, no? Perché il sostegno, la solidarietà sono importantissimi. E per chiudere, rispetto alla DAD e cose del genere, abbiamo anche cominciato a mettere mano, da un punto di vista sia teorico ma anche di lotta, diciamo, come strumento concreto, allo smart working. Chiudo, veramente non parlo più. Allora, io torno a una vecchia cosa di Franti, che era uno dei temi che a me stavano a cuore e che mi fa piacere sentire oggi, in maniera molto, come dire, sottolineata da tutti gli interventi, da Francesco, da tantissimo Angelo, anche Andrea e anche Tommaso. Giovanna, condivido tutto quello che hai detto, che è quello della perdita di uno sguardo sulla scuola, di uno sguardo che hanno un po' tutti i soggetti coinvolti, e ahimè il rischio che poi quello della relazione, no? E che include poi le emozioni, tutto quanto, che poi permette l'avvio dei programmi, l'avvio dei percorsi, eccetera, eccetera. Però se la scuola, che è un luogo di cura, e non soltanto del qui e ora, ma in una prospettiva di benessere e di dal più piccolo, dal nido, mi viene da dire alle superiori, e di, come dire, focalizzare quello che sono il percorso di crescita di un bambino, ma ahimè non solo di un bambino, ma di un'intera comunità, no? Cioè della sua famiglia in primis, perché al nido e all'infanzia il bambino entra con la sua famiglia, con i suoi genitori, no? E quindi poi di un corpo docente, di una comunità educante che fa parte di un territorio, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, oltre alla competizione e ad altri termini che sono usciti, quello che io purtroppo, ahimè, ripeto da un po' di tempo, ancora prima del Covid, ed è uno dei motivi per cui spero davvero di andarmene prima o poi dalla scuola. Io ironicamente dico demoliamola, ma perché è demolita dentro di me, cioè nel senso che io non ho più, cioè è uno sforzo quotidiano, però io... E poi voglio riagganciare al tuo discorso della Andrea, che posso condividere in parte, ma non, però siamo ancora su un piano di enorme tristezza del conflitto, perché se dobbiamo ridurci a viverci le conflittualità nelle singole scuole, Andrea, è veramente dura. Detto questo, ma forse poi, cioè, dobbiamo anche noi chiederci delle cose, io in primis, però io non ho più risposte, no? Nel senso, faccio proprio fatica. E la tristezza è perché, quello che la pandemia, la DAD, che io per fortuna alla grande, per scelta, non me la sono giocata perché... avevo l'opportunità di andare ai servizi sociali, me ne sono andata ai servizi sociali e quindi... non ho vissuto se non le chiacchierate, ciao, come stai, la mamma disperata, eccetera, eccetera. Vabbè, ma va bene tutto, ok. Però, ma anche perché, voglio dire, se la DAD è stata difficile dalla primaria in poi, cioè provate a pensarlo ai nidi, perché è stata fatta la DAD ai nidi e alla materna. Detto questo, penso che se c'è qualcosa di positivo di tutta questa roba, di tutto questo periodo drammatico, e sono d'accordo con quello che dice Tommaso, e sono d'accordo che i soggetti sono vivi, ma sono mezzi esauriti tutti quanti, a partire dai bambini, dai genitori, dagli insegnanti e da tutta la comunità educante, perché quello che non c'è più è quello sguardo comune, cioè che vuol dire la famosa parola tanto citata della corresponsabilità educativa con le famiglie, dove cazzo è andata a finire? Perché se da un certo punto in poi le famiglie non si chiamano più famiglie, ma da settembre il Comune di Milano le chiama clienti, capisce a me che cambiano un po' proprio gli sguardi, no? La scuola, l'abbiamo detto in tutte le salse ritrite, è un'azienda, eccetera, eccetera. Gli stessi bambini fra un po' ti dicono che cosa vogliono. Come? Oggi non si fa niente. Sì, non si fa niente, perché non ti puoi annoiare un attimo e fare i conti con la tua noia. Non è che dobbiamo sempre fare qualcosa. Comunque, detto, no, per dire dove si è arrivati, no? Allora, se c'è qualcosa da recuperare e se vogliamo ritornare all'idea della scuola, dal grado, dal nido, ma te va... anche dal tempo per le famiglie dai 0 ai 6 mesi, perché non è che la mamma deve venire lì e sbattermi il bambino perché non c'ha voglia o deve andare al parrucchiere, stai lì e stai in quella relazione, no? Perché se no, che senso ha che tu venga in quel servizio? Puoi andare dal parrucchiere, te lo siedi in braccio mentre ti fanno i capelli. Allora, il punto è che o si ritorna a quella origine, che è quel passato che non bisogna rinnegare. Che cos'è la scuola? È vero, noi non abbiamo mai pensato alla scuola come preparazione di bambini competenti, giusto? Almeno io no, mai avuto e mai lo voglio avere. Vorrei solo che ci fossero bambini sereni nell'affrontare il loro percorso di crescita. All'infanzia ci sono degli obiettivi, alla primaria altra, alle medie altre, alle superiori altre. Ahimè, però purtroppo, tutti noi che siamo coinvolti nella scuola sappiamo benissimo che quella parola competenza è stata massacrata, manipolata e anche i bambini diventano competenti di abilità, di strategie e quindi di, è vero, di rivalità anche già intellettuali, di arroganze anche a volte. Di sfide anche verso l'adulto ma anche fra i bambini e che sono molto pericolose perché si rischia di costruire una scuola e ahimè qua noi abbiamo una grande responsabilità, a me spiace dirlo, mi ci metto dentro anch'io, che la scuola in primis non è più lo stare per capire, per ritrovarsi e per ritrovare l'altro e per capire il confine del mio corpo, del corpo dell'altro e del rischio e di tutto quello che vogliamo dire, che sono tutte quelle, come dire, quelle coordinate che poi permettono davvero di fare proprio quei saperi, quelle capacità che sarà però lo studente a farle sue, a manipolarle, tutta questa roba qua, se proprio vogliamo dirla un po' alla Foucault, si è persa completamente ed è molto dura che la recuperiamo. Almeno io non ho molta fiducia, forse perché, boh, non lo so, sono stanca, forse sì. Andrea, io non credo che, è quello che diceva anche un po' Giovanna, sì, ad un certo punto penso che ognuno di noi, in piena solitudine, anche fra di noi, che molto spesso non ci siamo neanche capiti neanche fra di noi, perché, voglio dire, dalla morata, non lo so da quale riforma, siamo sempre noi, qualcuno in più, qualcuno che se ne va, qualcuno che arriva, non riusciamo ad agganciare le nuove generazioni di insegnanti, di educatori, hanno proprio una prospettiva completamente diversa, ma non è una critica, e qui il discorso intergenerazione, ma che non è soltanto voglio dire orizzontale, ma è anche verticale, cioè a volte, cioè, secondo me manca proprio un serio come dire, un passaggio nel comprendere quelli che sono i reali bisogni anche delle nuove generazioni, anche dei nuovi bambini, non sono i bambini di 10 anni fa, non sono gli studenti di un po' di tempo fa. Si è sempre più difficile a trovare quelle mediazioni che possono permettere di creare quello scatto, no? Eccetera, eccetera. Però o la scuola ritorna in un luogo di cura, no? In un luogo di cura dove però il corpo docente deve farsi delle domande, ma però ce lo diciamo da una vita, e deve farsi delle domande partendo dai propri errori. Noi abbiamo fatto degli errori enormi, almeno io penso tanto a noi nel mondo dell'infanzia, dove le famiglie hanno un ruolo molto importante. Le famiglie sono troppo entrate nella scuola, i confini si sono troppo, come dire, confusi. Ad un certo punto la pandemia completamente, perché io nell'ultima riunione a scuola, per dirvi, ho detto chiaramente alle mamme e ai genitori: signori, così non funziona più. Allora, in tempo di pandemia, e c'era quella che era esaurita, c'era quella che piangeva, e c'era il bambino che voleva fare la chiamata, e c'era quello che voleva fare il padre, e c'era quello che invece voleva chiamarti ma non fare il video, cioè vabbè, ne abbiamo di tutto e di più, va bene, perché quella era l'unica possibilità di vivere la relazione umana. Però nel momento in cui si è tornati nel luogo, perché è vero che i bambini volevano tornare a scuola, e anche i ragazzi, Andrea, anche i ragazzi più grandi, ma in modalità diverse, in forme diverse, forse con la socialità come priorità, però volevano, quella roba lì è mancata, tanto è vero che poi molti di loro hanno fatto fatica a uscire, a tornare a scuola, a riconfrontarsi con gli altri, col mondo, ma anche con se stessi. Però o si torna a comprendere qual è il dispositivo pedagogico della scuola, qual è il setting, e in quel setting chi siamo noi, chi è la famiglia, quando sparisce questa famiglia, perché all'università ultimamente si vedono i genitori che accompagnano gli studenti a chiedere la tesi, no scusate, per me è una roba allucinante, però sembra che va di moda, vabbè, forse non la comprendo io, però quando sparisce, da me è già sparita la terza media, ma io sono del 70, non lo so, quindi forse bisognerebbe un po' confrontarsi e capire, però i collegi, è vero Giovanna, sono d'accordo con te, perché cioè, i più competitivi dei collegi e delle singole persone dei collegi, più come dire, controllori del tuo operato, più controllori della tua timbratura al mattino, delle ore di gestione che fai, ma tu cosa fai? Tu di cosa ti occupi? E di qui, e di giù, e di su, e cosa hai preso dalla valutazione? Però poi il motivo per cui sei lì, che può anche essere ragionare attorno al sapere e alle competenze, voglio dire, prettamente legate al programma e alla didattica, ma i bambini, gli studenti, la relazione, la fatica degli adulti, noi, le famiglie, il personale ausiliario, ma vogliamo parlare di come vengono trattate le nostre commesse nelle scuole, 4 euro all'ora, e devono fare in fretta a pulire, e adesso con la pandemia finalmente abbiamo tutti i cessi delle scuole di Milano finalmente puliti, perché ci sono 5 commesse che piscia uno e subito viene disinfettato, e forse Giovanna da settembre questo non c'è più, perché se la pandemia finisce torniamo a pisciare tranquillamente sulla piscia degli altri. No, per dire cos'è la scuola, no? Tutta questa rincorsa. Certo, non abbiamo forse più, non lo so tu, però io, cioè, nelle ultime settimane continuo allegramente a mandare a quel paese tutti quanti, poi ci bevo anche una birretta per poi riprendere la litigata il giorno dopo, ma possiamo andare avanti così? Sempre più soli, magari con qualcuno che ha quello sguardo, però tu hai sempre quella modalità viscerale, e cavolo, però non va bene, e no, allora bisogna sempre affrontare tutte le cose con molta tranquillità. Boh, non lo so, cioè, Andrea, torna a te. No, io non ce la faccio, non per altro. Perché se sono molto educata e molto così, tu mi freghi. E invece io se ti aggredisco non mi freghi. Prima perché c'hai paura e quindi te ne vai. Ti spavento. Eh no, Andrea, è così, dai, basta. Però quello che tu dicevi prima, mi dispiace, ma è l'aspetto più triste di quello che è uscito fuori. È l'aspetto più triste di quello che è uscito fuori, che non sto dicendo che non è giusto, dico solo che per me è l'aspetto più triste che è uscito fuori, perché già all'interno dei collegi fatica a trovare qualcuno che, cioè, noi al Comune di Milano veniamo valutati, cioè Flavia, no? Cioè, non ti dico il giorno della valutazione, va da 60 a 100, non ti dico. C'è la lode? No, quella non c'è. Però ci sono soldi sullo stipendio. Ma quello è il regolamento degli enti locali. Comunque, se però dobbiamo ridurci anche che a settembre tra le tue proposte sono, così le sparate, ma voglio confrontarmi con te. Sciopero bianco, vabbè, già fatto. Ho fatto pure io la materna. Poi, cos'è che hai proposto? Corteo interno, già fatto Andrea, l'ho già fatto il corteo interno, ma, no, ma ho capito, ma cosa facciamo? Ogni scuola, e poi cosa facciamo? Un collegamento Zoom per dirci che siamo in lotta? Fammela Angelo, fammela. Ok, voi allo Stato potete farlo? Fatelo, anch'io lo faccio. Poi? Cioè, no Andrea, quello che voglio dire è che allora, in sintesi, o torniamo a pensarla davvero tutti come un luogo di cura delle relazioni, questo però vuol dire un grosso sforzo ancora una volta che non può coinvolgere soltanto noi, ma i nostri colleghi, le famiglie, noi tantissimo alla materna, ma tantissimo. Ma io sono anche disposta, con la mia classe lo devo fare, è una questione di sopravvivenza. Però all'interno della mia scuola lo si fa, chi lo sa, non lo so, non penso, non lo so, non mi interessa. Sono arrivata a dire, non mi interessa. Ma e poi cosa facciamo? E il resto del mondo della scuola? Cioè oggi è vero, è il 30 giugno, ed è vero che è una data infelice, perché finalmente oggi anche le comunali hanno chiuso, era ora. Domani inizia la scuola estiva, la maggior parte dei docenti sono già in vacanza. Poi senti, anche questi docenti, che fatica. Cioè, io mi ricordo anche al presidio, che fatica. Nel momento in cui veniva assicurata la propria assunzione di ruolo, spariscono tutti. Anche quello è anche un altro dato. Ma poi, davvero riusciamo con tutti questi docenti, educatori, a puntare a quel focus, a quello sguardo educativo? Ce l'abbiamo davvero tutti chiaro? Non lo so. E quindi forse a volte anche in piena solitudine uno deve andare, poi però con tutta la frustrazione del caso. Allora forse bisognerebbe magari capire laddove ci sono forme di resistenza, e torniamo a una vecchia roba del festival, dei bambini e le bambine, piuttosto che della di Franti, e che voi avete benissimo chiaro che ci sono a volte dei ponti, no? Che vanno costruiti, che vanno tenuti. Perché storie come quella di Gianni non è proprio accettabile, non è proprio, come dire, non si può sentire. Ma poi c'è anche un malessere psichico nella scuola, non solo fra gli studenti, non solo fra i dirigenti, ma soprattutto fra gli insegnanti. Quindi se anche lì non ci si accorge che forse è il caso di fermarsi un po' tutti quanti, perché è vero che l'RS1 ha lavorato tantissimo sul lavoro correlato stress, eccetera, eccetera, però le procedure sono di un certo tipo, e poi non sempre si ha il coraggio di ammetterlo, no? Che forse è il caso, magari prendersi anche una pausa a volte. Forse fa bene in primis a te, ma anche a scuola, a tutti. Non lo so, io non ho soluzione e non ho più l'entusiasmo di una volta, ma non lo voglio neanche più avere. Cioè, purtroppo sì. Purtroppo sì. Poi se vengo spiazzata, ben venga, però. Però bisogna comunque sempre partire da lì, dal luogo di cura, dalla relazione e da quello sguardo, perché con quello sguardo poi tu guardi il mondo, lo guarderanno loro, lo guardano tutti, poi magari non lo vediamo con lo stesso colore, non importa, ma almeno quegli strumenti per poterlo fare glieli vogliamo dare, non come lo devi vedere, ok? Non come lo desidero che tu lo vedessi, no, mi interessa niente, poi ti puoi formare per quello che vuoi, però quella capacità, che è un attimo costruirla, perché si tratta di star lì in un agorà, ad esempio a scuola, a ragionare con i piccoli, con i colleghi, il collegio, l'agorà, con le famiglie, con la cittadinanza, qua questa è un agorà, no? Vabbè, boh. Non lo so, Andrea, era più facile ai tempi della, come si chiamava? Falcucci. No, era dell'85. No, che 85? Sì, 85. C'era ancora la Falcucci. 85, ho fatto il Cortegno Varese con Andrea. Beh, ma eri studente. Appunto, forse era più semplice allora. Ucci la Falcucci. Non lo so, io mi sto prendendo questo spazio di, come dire, di chi gestisce l'assemblea, che non volevo, però me l'hanno dato, Tommaso me l'ha dato, è lui il capo. Non lo so, io inviterei Gianni, visto che è stato evocato varie volte, almeno se vuole parlare. Sì, se se la sente, come vuole parlarne, perché... Giustamente, insomma, nessuno vuole parlarne per interposta persona, se non accennandolo. Se ne voglia, se te la senti. Lo posso introdurre? Non so se... Gianni, vieni. Aspetta che... Non... No, arriva, va bene? Sì. No, un'introduzione quasi incomprensibile. Vediamo se poi Gianni la sviluppa o la contesta. È una storia di arroganza e di pusillanimità, di soggezione. Vediamo se Gianni accoglie questa sintesi. Beh, contesto. No, mi trovo in un crogiolo di contraddizioni, prima con me stesso e poi con alcuni punti del dibattito. Sono stati evocati concetti verso cui ho imparato a fare guerra continua, sistematica, non oserei dire anche scientifica, perché questo forse non mi è riuscito troppo, come quello di famiglia, come quello di educazione. E con la vicenda appena capitatami, credo di aver raggiunto il grado di saturazione massimo, di tossicità della scuola. Peccato però. Tommaso ha evocato la triade aristotelica dei principi su cui si fonda il benessere intellettuale, conoscitivo. A pensare che Manzoni li avrebbe persino contestati per la sua drammaturgia, e in questo dava novità di vedute, farebbe anche questo stesso riflettere. Però a me interessa adesso il termine, il concetto di scuola, che è mortale, mortifero. Contesto perché è stato detto che una voce dal seno uscita, quello delle macerie della scuola. Allora, abitare la catastrofe non è molto diverso che fare macerie della scuola. Se quella catastrofe è una reductio ad bellum, e allora il conflitto, che è un fermento, ma è un fermento che provoca distruzione. Allora, scolè, mi dispiace, deriva da un termine greco che significa, un bellissimo termine greco, che significa ozio, significa tempo libero, significa vacanza. Il capitale è riuscito a ridurlo ad una coazione a ripetere di trasmissione di nozioni, di concetti biechi, feroci, vetusti e ammorbanti di noia. E allora la scuola non può essere, semplicemente non può essere. Io ho raggiunto questo grado di saturazione, provengo da 5 ore di collegio odierno in cui il capo espiatorio che voleva essere il tabù per Angelo, purtroppo non è il tabù, è la prassi e la ragion d'essere di un'organizzazione sociale che ha nella scuola il suo riflesso conoscitivo e organizzativo. Io sono stato accusato melensamente di fare l'untore, vabbè, ma la cosa più difficile da sopportare è la calunnia di essere un politico o di fare politica. Allora io ho ragionato su questo. Vediamo di capovolgere la domanda. E se io non fossi un politico, se io non facessi politica, non sceglierei neanche un libro di testo, non aggancerei i programmi alla contemporaneità, cioè dissosserei dalla carne della realtà l'insegnamento, che evidentemente è relazione. È una relazione, non è detto che sia bella o brutta o che questo faccia il falso o il vero di una conoscenza o di un sapere, non è questo. La relazione è perciò stessa intrinseca al conflitto. E può riuscire avventurosa, disavventurosa, ma riesce in qualche modo. Questa è la relazione, l'insegnamento è relazione, quindi vorrei che si facesse piazza pulita dell'adagio che non si fa politica a scuola, perché allora non si ripeto, non si sceglie neanche un libro di testo. Io ricordo un libro di testo di storia in cui si arrivava a sostenere che il popolo ebraico, sto parlando degli ebrei del primo millennio avanti Cristo, erano stati fautori e creatori di democrazia. Proposto immediatamente di cambiare il testo di storia. Era una mia visione, avevo argomentato, ma questo è un atto politico. Allora, se la scuola è relazione, se la scuola a tempo libero è relazione, non la scuola nelle quattro pareti. Socrate se ne andava ai bordi delle piscine, nei perimetri delle palestre, a instaurare questa relazione sulla base della sua maieutica, sulla base di trarre conoscimenti dall'interno dei pensieri di chi aveva l'avventura di occupare la sua interlocuzione. E lo faceva appunto in quei luoghi, lo faceva sotto l'albero, lo faceva per i sentieri. Oh, grazie, grazie Andrea. E allora vedere questa scolè ridotta a conformismo di tutto l'attorato che gira intorno alla scuola, dai docenti ai studenti, purtroppo alle famiglie. Io sono in una scuola superiore e anche lì la famiglia è qualcosa che è indecente nella scuola. Capisco la posizione e lo sguardo di Piera, perché negli asili si entra con le famiglie, meno, come anche Piera diceva, è comprensibile che negli asili nido, nei nidi, si faccia dad. Io mi chiedo che cosa può essere questa dad negli asili. Però diciamo che è comprensibile che negli asili ci siano le famiglie. Non è più comprensibile che lo siano nelle scuole medie, inferiori, superiori, immaginiamoci all'università, è semplicemente riprovevole, ributtante che uno studente abbia rinunciato alla propria autonomia. E allora, se la scuola è il luogo del segno politico per cui noi ci diciamo insegnanti, vorrei evitare la parola altisonante, retorica, di educatori. È vero, è bella anche questa parola, perché educare significa condurre fuori da ignoranza, da rozzezza, ma perché questo dovrebbe essere anche il sapere, non è una addizione o una moltiplicazione, semmai è una sottrazione di ignoranza il sapere, cioè vederlo in questi termini. E allora, se questa è la scuola come relazione e segno politico, io l'abbatto la scuola perché sia invece il luogo di un'umanità senza Stato. Perché in quell'umanità senza Stato vuol dire che si è portati si è resi evidenti il segno di un apolitismo, di un cosmopolitismo. E allora la scuola relazione, la scuola vacanza, la scuola ozio, che va abbattuta nel primo termine, cioè in quello di scuola, perché è stato svilito, è stato snaturato, è stato tradito, Beh, allora, questa scuola è l'unica che possa rinascere, la scuola come relazione possa rinascere dalle macerie. I totalitarismi, citavano prima Piera e altri Foucault, scusate, le istituzioni totalitarie, intendevo quelle, non i totalitarismi, le istituzioni totalitarie. Io non posso ancora dimenticare in un fumetto audio-video dei Pink Floyd, a che cosa è ridotta la scuola, sia pure nelle idiosincrasie di chi le aveva pensate quelle scene, è ridotto a mattatoio di corpi e di cerebri. Allora, se questa è la scuola, no, grazie. Un ultimo pensiero sulla DAD, che aveva nell'acronimo già una felicitas negativa. La scuola DAD era la scuola dadaista, no signori, no. La DAD è la negazione della relazione, la DAD è la negazione, questa è stata e continua ad essere la DAD. Negazione della relazione umana, intellettiva, emotiva. Uso qui scomodare, ma lo faccio brevemente perché mi sembra un pensiero maestoso, quello di Spinoza. Nella sua etica, e non a caso io chiamo in campo l'etica, perché prima di tutto noi siamo ethos, siamo comportamento, siamo costume pensante. E allora, a proposito della idolatria dell'adolescenza, di cui si parlava prima, non è che non si debba tener conto delle fragilità emotive, non è questo il punto, ma bisogna, però mi rendo conto che potrebbe esserci, adesso sono un po' confuso, del paternalismo in quello che dico, non so se ho preso da qualche parte. Che cosa? L'ultimo che ho conosciuto, no. Voleva essere anche il padre di Renzi. No, grazie. Voleva essere anche il padre di Renzi. Adesso sto perdendo il filo, ma voglio ancora dire qualcosa sulla DAD. E quindi su quello che ho definito pensiero maestoso dell'etica di Spinoza, il quale parla di una unità irrinunciabile, indissolubile di corpo e di mente, che fa di ciascuno di noi, di ciascun soggetto, il proprio esistere, e non esiste un corpo senza il tramite di un altro corpo, senza la compagnia di un altro corpo, senza l'insieme degli altri corpi, altrimenti non ci sarebbe che uno stare, non lo so, uno stare inconsistente, ma neanche si deve pensare che è quell'ex con cui noi formiamo il concetto di esistenza, possa far venire in mente un'alienazione, possa far venire in mente, perché è qualcosa da quello che si è, pericolosissima l'identità. Ovviamente la stiamo sperimentando anche con le politiche securitarie anti-immigrati. Allora, se questo è il corpo, unità indissolubile, una esistenza per, con altri corpi, allora è chiaro che la DAD non funziona e non può funzionare. E non può funzionare, io che sono stato accusato di non avere acceso mai le telecamere, le videocamere nella DAD, questa è stata un'accusa. E poi veniva da un pulpito altissimo, perché pensava che da uno schermo si potesse creare una relazione sincera, genuina, umana, da uno schermo, da un display. Noi abbiamo voluto, e anche qui torna Spinoza, noi abbiamo voluto millenni per codificare la relazione degli sguardi, dei sorrisi, delle espressioni facciali, de visu, de facto, guardandoci, toccandoci. E si presume che in un anno di DAD lo schermo restituisca quella relazione. Io usavo la fonè, la voce, e mi è stato detto che dovevo usare la camera. Noi siamo infetti di click, di immagini, e dobbiamo ulteriormente attossicarci anche per questo. No, grazie, ma mi fermo qui. È stato accusato da genitori e... Poi mi contesterà Gianni, ma quando dicevo arroganza e pusillanimità, cosa non raccolta da Gianni? Spiego però perché, forse rispondendo alla domanda che qualcuno ha fatto, no? Non i genitori, ma un genitore particolare, per cui ho detto arroganza, un genitore conosciuto, televisivamente conosciuto, persona in qualche modo quindi che ha una sua immagine esterna, pubblica, un genitore non fa un passo. Per esempio, lo dico io questo, per esempio un passo per una sua voglia, scontentezza, non fa un passo verso, diciamo, un docente, ma direttamente, sbaglio? Si rivolge alla gerarchia scolastica, perché il passo verso il docente avrebbe potuto essere contrasto, conflitto, accordo, qualunque cosa. Però non viene fatto. Il passo che viene fatto da un genitore conosciuto e importante è quello di rivolgersi alla direzione scolastica, al dirigente scolastico. Cosa fa il dirigente scolastico? Anche lui. Quindi arroganza già è partita e continua, coniugandosi con la pusillanimità nel caso del dirigente scolastico, perché il dirigente scolastico non fa anche lui un passo d'incontro verso l'insegnante, chiamiamolo così, imputato. No, non lo fa. Ma dall'alto della sua potenza decide lo spostamento, badate bene, ad anno scolastico avanzato, decide lo spostamento da una classe all'altra del docente in questione. Quindi non fa un passo verso l'insegnante, ascoltando eventualmente le sue ragioni, ma ascoltando solo le ragioni del cliente potente, e sposta, diciamo, d'imperio da una classe all'altra Gianni. Questo è il fatto, va bene? Allora, in questo che cosa trovo anche? Oltre che l'arroganza di partenza, la pusillanimità di arrivo e la nuova arroganza di ripartenza da parte del dirigente scolastico. Questo è il funzionamento che ha portato, diciamo, al fatto accaduto. In questo senso dicevo che poteva essere raccolta la descrizione. Se il fatto è chiaro, io credo di avere finito, perché la domanda era sui fatti accaduti. E a proposito di relazione, è finita che Gianni fa un controricorso rispetto allo spostamento, giustamente aggiungerei io, no? Sbaglio? No, è giusto. E quindi si vedrà come finirà, insomma. Ormai ad anno scolastico finito è finita, però diciamo lavarsi le mani di questa cosa non è evidentemente la cosa che fosse giusto fare, no? Si è avviato un procedimento d'urgenza che doveva portare una sentenza rapida rispetto alle sue sorti e alle sorti della sua classe, e questa cosa è stata rimandata fino alla fine dell'anno in maniera tale che lui non è riuscito a rivelare. Torna la pusillanimità. Esatto. Si vedrà che segno avrà. Cosa che doveva risolversi in 3 giorni, si è prolungata per 3 settimane. Istituzione, perché il mio campo, terreno di contesa tra 2 istituzioni che si trovano l'una contro l'altra armata, nello stesso stato, cioè la giustizia e l'istruzione. Questo. E quindi io non posso togliermi dalla testa che le manus longae siano arrivate anche al giudice, perché è una sentenza che aveva in questione l'urgenza, per cui si davano 2 momenti: il primo quello dell'urgenza, il secondo quello di merito, e in quello di merito ci sarebbe decisa l'annullamento e la illegittimità dell'atto, che è stato artatamente derubricato da quello che era in effetti, cioè sanzione punitiva, a assegnazione di una classe, fatta però ad aprile. Un'assegnazione peraltro in negativo, perché avevo 3 classi e ad aprile lor signori mi fanno l'assegnazione di 2 classi. Quindi stanno dicendo ti tolgo una classe, ma non lo dicono. E quindi l'urgenza era, così come dire, prevedeva il legale, che l'anno scolastico si chiudeva e quindi io venivo demansionato, uso questi termini, e quindi con grave danno e irreparabile alla mia professionalità. Risposta della giudice, che avrebbe dovuta dare dopo 3 giorni, è stata data dopo 30 giorni. Non c'è demansionamento, non c'è urgenza, perché l'anno scolastico non è un'urgenza per cui io debba poter entrare prima che esso finisca, e non è una mancanza di professionalità, non è un danno alla professionalità, perché io continuo ad insegnare greco nelle altre classi. Se questo non è Pilato, Pilato è un santo. Vabbè, ci ho detto, diciamo, c'è anche, il bello è questo, c'è anche, come dire, la diversità dei punti di vista, perché non tanto sull'ultimo argomento, su cui mi pare che invece abbiamo trovato concordia, però diciamo c'è un passaggio di Gianni che io sintetizzo, lui stesso forse ha sintetizzato con solo macerie. Scuola solo macerie. Beh, è indubbio che è anche affascinante, è indubbio, non solo è percorso, abbiamo anche percorso dentro di noi queste valutazioni, no? È indubbio che è affascinante, come non so quanto possa essere credibile e forse anche opportuno. Di fatto, diciamo, c'è un'altra possibile lettura che, diciamo, in un documento noi abbiamo anche espresso, magari è un passaggio su cui appunto Gianni non è d'accordo, ma è quello appunto del forse con un taglio e una prospettiva indubbiamente meno affascinante, meno forte, però anche forse più credibile, più possibile, che è appunto una critica dall'interno, anche fortemente resistente, anche fortemente contraddittoria nei confronti dell'istituzione, ma che prende anche atto, diciamo, di un fatto reale, concreto, e cioè dire la prospettiva di ragazzi e ragazze che abbiamo quotidianamente, con cui abbiamo quotidianamente il contatto. E questo è, come dire, un elemento, diciamo, di riflessione che rispetto alle macerie, rispetto alla distruzione, qualche problema pone. È quello che un po' mi sembra in Caos Scuola abbiamo, se non sbaglio, abbiamo espresso. Vabbè, insomma, normale che ci sia questa. Io, visto che durante il dibattito sono stato un po' antipatico perché avevo fatto segno ad Angelo di stringere, perché volevamo lasciare perché sono qua visto che avevo fatto cenno per ragioni di apertura del dibattito, che poi vedo che incredibilmente è decollato, io volevo ritornare proprio sull'intervento di Piera e sull'intervento tuo rispetto a Destruens. Ma una delle cose pratiche che dovremmo prendere assolutamente in considerazione è quali possono essere i contenuti sui quali, o i contenuti, le metodologie, gli strumenti che abbiamo anche sperimentato all'interno dell'istituzione totale, che però possono essere, come dire, sfrondati e utilizzati, cioè, diciamo, come pensiamo a una relazione pedagogica costruttiva? Perché io, quando prima avevo proposto, è vero, cioè anch'io sono abbastanza disperato, testimonio di questa tristezza diffusa, la paura e la tristezza sono le emozioni, se vogliamo parlare di emozioni, che dominano all'interno della scuola, e questa è una cosa che, cioè, mi schifa. Sì, no, guarda, no, almeno ci fosse della rabbia, no, sono più emozioni negative. Ma io, cioè, mi sono chiesto, e a questo punto, visto che si parla di sguardo e si parla di anche eventuali contenuti, cioè, parliamone insieme, perché al di là delle pratiche oppositive e distruttive, no, io avevo pensato anche a sottolineare la partecipazione e la collegialità, un ritorno alla partecipazione e alla collegialità, come ai bei tempi, attraverso il battagliare nei collegi, presentando delle mozioni che giravano all'interno, come dire, di determinati ambiti alternativi, per cui automaticamente c'era un'agenda politica e c'era un'immediata mobilitazione altrettanto politica che coinvolgeva diversi soggetti. Per me la proposta che facevo, magari in maniera un po' incomprensibile, magari in maniera troppo sintetica, puntava a quella roba lì, al ritorno ad una forma di rivendicazione della partecipazione e di costruzione. Oh, lo so, è difficilissimo, però occorre voglia, ci vuole, cioè ci si fa due palle così, però secondo me rimane come ultima via. Ma invece sui contenuti, cioè confrontiamoci su quello, cioè per chiudere, no? Perché all'interno della scuola, perché l'esternalizzare, no, intanto mi sento. Ma se no non si sente. Ah, l'esternalizzare la lotta, hai detto? Ciao. No. faccio reggi il microfono, va bene tu scorso. Ci arriva Andrea. Tu hai detto che l'esternalizzare la lotta non aveva più senso, cioè che forse non ha più senso, è più faticoso. Allora, è improponibile, ok, non si può più fare. Allora, forse partire da ogni singolo istituto, scuola, edificio, collegio, non lo so, partire da lì. E io ti ho detto, va bene, cioè no, a me non va bene. Primo anche perché nel mio collegio, non lo so, in due, boh, non lo so, comunque. Detto questo, siccome poi ci sono tutta una serie di forme di resistenza, che comunque nonostante tutto fanno qualcosa, non è detto che facciano qualcosa di giusto, però fanno qualcosa che, dove io mi ritrovo, no? Poi cosa facciamo tra le varie realtà scolastiche? Ci colleghiamo in Zoom? Cioè, è una provocazione che ti sto facendo. Perché se poi la scuola non mi esce fuori dalle sue quattro mura, cioè il mondo non sa che cazzo è la scuola e quello che noi ci viviamo, no? A partire dalle famiglie che si accorgono della scuola. Purtroppo io la famiglia la devo mettere dentro, ma io la voglio dentro, hai capito? Non la voglio fuori. Io, dove sono io la voglio. Poi verso i 5-6 anni anche un po' meno. Cioè in bagno i bambini vanno da sola. Cioè io in piena pandemia abbiamo dovuto dimenticare tutta sta roba. Io a maggio ho fatto ritornare i miei bambini in bagno da soli. Ma perché non possono più andare da soli? Per le bolle? E allora? Tanto ce l'hanno chiara la roba. No? Cioè devono tornare a fare quella roba lì, io devo dargli la possibilità di farsi tutte le scale e andare giù a prendermi una, non so, appena ha dimenticato un libro in giardino, dai Ricky vai giù a prendermelo tu, ma era una roba normale, non devo più farlo perché c'è un bambino in una scuola primaria, no scusate, che si butta giù, muore, e grandissima tragedia, l'insegnante tra l'altro è stata condannata, se ne parla un po' così, non se ne parla più, però lì c'è una tragedia, ma ci sono anche dei fatti che poi non si raccontano e chi non è dentro nella scuola quelle cose lì non le sa, perché se mi si arrampica un bambino ovunque è ovvio che io sono lì sul rischio, ma io quel rischio lì lo voglio vivere. Con la pandemia tutto scomparso, no? Ma anche prima della pandemia, però che fatica che tu fai così, no? Quindi cosa facciamo poi? Ci mettiamo in Zoom, a Legnano. Oh Andrea, come va la resistenza dalle tue parti? No, non lo so. E allora dammi una... però cosa facciamo? Cioè, le strade vanno riprese, no? Anche dalla scuola. Ma io non so più come fare, cioè, non so come dire. La storia di Gianni è veramente allucinante, soprattutto perché mi è arrivato il nome, però, cioè, ok... Però la trovo allucinante nel suo contesto, perché dico, ma mi domanda, i tuoi colleghi ti sono stati vicini? Il tuo collegio c'era? C'è? Non mi rispondi. Mi hai già detto tutto, cioè, voglio dire, hai capito Andrea cosa sto dicendo io? Quindi, io poi non lo so. La mia, è vero, è tristezza, un po' anche incazzatura, perché forse è quella cosa che mi fa sentire viva. No, io dico una cosa velocissima, tra l'altro devo anche muovermi, tra poco l'ora è tarda per tutti, insomma, volevo dire, uno, credo che in realtà Andrea dicesse che in questo momento almeno incominciare a muoversi dentro per poi capire come uscire dopo, ma adesso il pensiero suo lo dirà lui, però io devo dire una cosa, perché lui è un uomo modesto, e quindi Andrea è un uomo modesto e non ama che parlare di sé, e non amerà neanche che si parli di lui, però lo devo fare. Cioè, lui è stato testimone quest'anno di un episodio veramente interessante. Cioè, quando era febbraio, c'era un freddo porco, le scuole erano chiuse, semichiuse, non si poteva così, lui con un gruppetto di altri tre scalcagnati suoi colleghi di diversissime estrazioni politiche si è messo davanti alla scuola col banco a fare lezione là davanti, proprio per polemizzare con la DAD, la cosa, gli schermi. Perché dico che è stata una cosa formidabile? Non è preso il raffreddore e dopo una settimana erano in 10. Io non so quante esperienze di lotta nel mondo della scuola vedono un più che raddoppio degli insegnanti che ci partecipano nel giro di una settimana. Cioè, il tasto era sensibile, insomma, io lo era freddo, erano giorni veramente freddi, quindi andare là non era solo un modo per dire fare una passeggiata, voleva dire rischiare, basta. Quindi questo va detto, lui non ha mai voluto che se ne parla, non so, l'avrà detto a voi, però ecco, l'ultima cosa per me, segnalo che mi veniva in mente adesso, non ci ho pensato mai, questo qua è un librino che abbiamo fatto nel 2011, quando facevamo il Free Festival, era venuto questo Marco Grollo, che era uno che aveva fatto una ricerca sull'educazione coi media, quando si iniziava a introdurre il tablet nelle scuole, niente DAD, niente pandemia, era questa roba che era meglio, no? E allora lui aveva fatto un bel lavoro con i ragazzi piccolini soprattutto, e l'avevamo poi tutto trascritto, e il lavoro è sul marketing, sui bambini, però c'è il suo contributo sugli schermi, cioè sull'idea di che cosa vuol dire confrontarsi con uno schermo e non con una persona, e mi veniva in mente da quello che dicevi tu prima. Ma Andrea mi tirava in ballo perché a proposito di modestia, che come dire, anche la capacità di relazione, vorrei dire un paio di cose, spero di riuscire a contenermi. Allora, Andrea mi sollecitava sulla parte Costruens, perché prima, insomma, in qualche minuto prima di cominciare questo incontro eravamo d'accordo che io mi occupassi anche un po' della parte Costruens. E è stato detto, ridetto, non è che uno ha delle soluzioni, perché la situazione, come dicevamo, è molto difficile. Però non lo so, voglio dire una cosa così un po' di pancia, una volta tanto. Probabilmente la nostra fatica di relazione, più che coi ragazzi, anche se certe volte francamente è difficile.